Linee d'ombra di Matteo Caccia. Venivano organizzate queste vacanze studio di 2-3 settimane che si tenevano in posti ameni della Dalmazia, ovviamente, dall'Istria fino giù a Dubrovnik. Quell'anno scelsero Zara. Gli austriaci si erano organizzati al meglio e sul Moletto, insieme al gruppetto di Suor Daniela, stavamo rimanendo solo noi italiani. Storie di corsi estivi e corsi di nuoto in una puntata che si intitola Senza smettere di imparare. Io ci ho ripensato, voglio cambiare sport. Mamma, posso cambiare sport? Dai, tuffati. Mauro, Romolo, Massimiliano, Michele, Elena. Dai Michele, vieni in acqua. Dai Michele, vieni giù. Dai, tuffati. Vieni giù. Vieni in acqua, dai. Guarda che ti porta l'acqua alta. Ti porta l'acqua no. alta. Guarda. No. Porti l'acqua alta. No. Vieni giù. Guarda, non c'è ancora il tempo a cambiare. Voglio fare un altro sport. L'hai capito? Ti porti l'acqua alta. No, dai, ho sbagliato. Vieni giù. No. Arbitro. No. Michele. Guarda, dai. Michele, in acqua. Giù. No. In acqua. Cos'è? Brutto sogno. Ah, sì. Insomma, l'avrete capito, io ho una grande passione per Nanni Moretti, in particolar modo per quei film lì, film degli anni 80, degli anni 90, in cui Nanni Moretti aveva tutte le sue paranoie, tutte le sue ossessioni tornavano e le rendeva visibili a tutto quanto il suo pubblico di appassionati. Insomma, ammetto che ci sono dei passaggi dei suoi film che io conosco a memoria, cito così a casaccio durante la giornata. Si intitola Senza smettere di imparare, la puntata di Linee d'ombra. Linee d'ombra è un programma che vi racconta tutti i giorni delle storie che hanno a che fare con un piccolo confine o un grande confine che avete o che volete, che vorreste varcare, e che quindi raccontano che prima sei in un modo e passa quella linea, si è in un altro, qualunque sia l'argomento che stiamo trattando, una questione legata al lavoro, legata a una conoscenza, legata all'amore, legata a una vacanza, a un viaggio, qualunque essa sia, Linee d'ombra racconta quello. E poi Linee d'ombra racconta dei diari della ripartenza. Questo è un piccolo pezzo del programma che abbiamo sviluppato a partire dalla quarantena, quando ci siamo ritrovati tutti, ciascuno nelle proprie case, abbiamo detto cerchiamo di raccontare che cosa succede in quelle case in cui tutto è chiuso fuori e nessuno è per strada, a parte quelli che appunto erano obbligati a farlo per lavoro, per motivi personali. Cosa succede in quelle case? E ci avete inondato di diari della quarantena e ve ne ringraziamo, perché abbiamo davvero scoperto un sacco di cose riguardo al nostro paese grazie anche ai vostri racconti. Ora invece siamo ripartiti lentamente, ma ci stiamo lasciando alle spalle questo periodo così complicato, e quindi la cosa che vi chiediamo è di mandarci dei diari di ripartenza. Linee d'ombra @radio24.it. Può essere qualsiasi cosa, può avere a che fare con una partenza fisica, cioè avete lasciato la vostra regione, il 3 di giugno vi hanno liberato e siete ripartiti, raccontateci cosa siete andati a fare, oppure l'inizio di la ripresa di un corso che stavate facendo, del vostro lavoro, o avete ripreso ad andare a correre, cosa che non facevate prima perché non si poteva uscire. Insomma, se avete effettivamente voglia di raccontarci una piccola, di illuminare una piccola parte della vostra ripartenza, raccontatecela. Linee d'ombra @radio24.it. Ad esempio, il diario della ripartenza di oggi ha a che fare con una giovane donna che si trova in un casino colossale per via del virus e di un incidente che ha avuto cadendo da cavallo, e quindi le ha creato un problema alla schiena. Deve essere operata, ma a marzo, figuriamoci, nessuno la opera perché non è un'urgenza, non è considerata tale. Lei però, per via del dolore, per via del fatto che non vuole rimanere inerte a casa, decide di partire da Milano, andare ad Ancona, perché ha trovato qualcuno ad Ancona che la opererà, e la sua storia ve la racconteremo oggi nel diario della ripartenza. Altrimenti vi mettete comodi e noi cominciamo, andiamo in un'estate degli anni 60, calda e meravigliosa. Siamo a Zara, siamo in Dalmazia, siamo in Croazia, e c'è un gruppo di ragazzi che è lì per imparare, senza smettere di imparare. Benvenuti a Linee d'ombra. Era l'8 agosto del 1969. Ci alzammo di buon mattino. Le lezioni sarebbero iniziate alle 7:30. Uscimmo di malavoglia da casa, un appartamento al centro di Zara, ospiti di un colonnello dell'esercito jugoslavo, ovviamente serbo. ma la voglia perché i nostri occhi si staccavano a fatica dalla visione delle due figlie del colonnello che gironzolavano per casa in shorts. Due tipiche bellezze slave, grosso modo nostre coetanee, che si intrattenevano volentieri in conversazione con noi occidentali. La Jugoslavia aveva da tempo abbandonato l'orbita sovietica, specie in politica estera, ma internamente conservava tutte le caratteristiche dei regimi socialisti, compreso il culto della persona, il leader Tito. Percorremmo un tratto di lungomare, la giornata era splendida, mare calmo, liscio come l'olio. Il sole alle spalle, diversamente da quanto accadeva nelle nostre spiagge abruzzesi molisane, ci consentiva di ammirare le stupende isole prospicienti. L'edificio del Magistero non era lontano, arrivammo in orario, ma trovammo i nostri colleghi austriaci e ungheresi già seduti al loro posto, come al solito. Ora vi starete chiedendo, che ci fanno giovani italiani, austriaci e ungheresi insieme a scuola in piena estate, in Dalmazia? Ecco, il mio comune, Montemitro, provincia di Campobasso, a 30 km da Vasto, insieme ad Acquaviva Colle Croci e San Felice del Molise, fa parte della più piccola minoranza linguistica d'Italia, dove si parla un idioma croato-dalmata tramandato oralmente da circa 500 anni. A causa delle invasioni turche nella penisola balcanica, quando arrivarono a minacciare Vienna, intere comunità slave migrarono dalla Dalmazia centrale a nord, cioè in Austria e in Ungheria, a est, in Romania, a nord-ovest, in Istria e ad ovest, oltre l'Adriatico, in Italia. Lungo tutta la costa, da Rimini al Gargano, nuclei di poche famiglie vennero assimilati, fusi nelle popolazioni italiane nel giro di 2-3 generazioni. Restano ancora tracce nei dialetti e nella toponomastica. Noi no. Forse perché più numerosi, i nostri avi si videro assegnare da vescovi e feudatari lande desolate e poco fertili all'interno, da dissodare e coltivare, oppure paesi da ripopolare perché semi abbandonati a seguito di epidemie. Diciamo la nostra è la più piccola comunità alloglotta d'Italia ed è a rischio di estinzione perché ovviamente con un numero così esiguo di persone, nascite pari allo zero, fortissima immigrazione che so io, probabilmente a San Paolo del Brasile o in Australia o in America ci sono più gente di Montemitro che non quanta ce ne sia qui o discendenti e che magari parlano un croato ancora più stretto e migliore di quanto lo parliamo noi qui. Fino ad ora, o meglio fino a un paio di decenni fa, ora nascono sempre meno bambini e aumentano le mamme estere, la nostra lingua materna è stata il croato, na najo, alla nostra. L'italiano, invece, si imparava a scuola. La Matica Iselienka Rvatska, omologa della nostra scuola Dante Alighieri, organizzava corsi di croato moderno per le minoranze linguistiche fuori dalla Croazia. Di fatto, 2-3 settimane di vacanza sia per noi, sia per gli insegnanti e i funzionari del PC jugoslavo, regolarmente presenti nelle nostre attività. Ecco perché, in quell'estate del 69, mi trovavo a seguire un corso in una scuola di Zara. Sedetti al mio posto, frugai sotto il banco in cerca degli appunti presi il giorno prima. Ci tenevo a non sfigurare con gli austriaci. Loro erano sempre pronti e padroneggiavano molto meglio il croato moderno, avvantaggiati dal fatto di appartenere ad una minoranza di ben 30.000 persone, mentre i nostri tre paesi all'epoca sfioravano a malapena i 3.000 abitanti. Le cose andarono diversamente però quella mattina. Dopo un po' entrò il direttore del corso, un grosso, bonario, simpatico preside di liceo tra i 50 e i 60. Come sempre, per consentire a noi italiani di comprendere bene, lesse con calma ed enfasi il programma della giornata. 7.30, 9.30 croato, 9.30, 10.15 storia, geografia, tradizioni e folklore croati, 11.30 mezzogiorno, musica e balli folcloristici, ore 12 pranzo, ore 13.30 partenza per Preco, isola di Uglian, 14.40 visita dell'isola ed escursioni libere, ore 18 ritorno a Zara. Puntuali alle 12.10 eravamo in fila al self-service. Da buoni italiani mangiamo con piacere in abbondanza. Quel giorno potevamo scegliere tra le varie opzioni di buon pesce e vari tipi di contorno. Non ci facemmo mancare frutta e dolce. Con sarcasmo osservavamo gli austriaci riporre in tasca o nello zaino una pesca o qualcos'altro per la merenda nel pomeriggio. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised land. La prua del piccolo traghetto per Uglian tagliava l'acqua lasciando nell'immediato un rivolo di schiuma che mi ricordava il nevischio scansato dalla lama dello spartineve. Arrivammo ben presto a Preco. L'escursione, fino alle 18, ora del rientro in traghetto, era libera. L'attenzione della maggioranza del gruppo era rivolta a un minuscolo isolotto, non tanto per gli antichi ruderi di epoca romana da visitare, quanto per le calette sabbiose, appartate e la fitta pineta che lo ricopriva fino a pochi metri dall'acqua. Un canale lo divideva dall'isola più grande. L'acqua virava dall'azzurro, al verde, al turchese, al rosso, a seconda del tipo di fondale, alghe, roccia viva o ciottoli. La profondità non superava i 3 metri. Con una barchetta a remi, un vecchietto traghettava i turisti in cambio di pochi dinari. Sembrava Caronte. Quasi tutti avevamo indossato il costume prima di partire. Il posto era di gran lunga più invitante di quelli che potevamo raggiungere a piedi e, per poco tempo, vicino al centro di Zara. Gli austriaci si erano organizzati al meglio. Suor Daniela e un altro paio di ragazze, un po' più, diciamo, riservate, sarebbero rimaste a guardia degli zaini con i vestiti. Stavamo rimanendo solo noi italiani, sul moletto, insieme al gruppetto di Suor Daniela. Degli 8 che eravamo, io mi reggevo a malapena a galla, Dario, il mio amico, nuotava decentemente, e invece gli altri nessuno sapeva nuotare, quindi ci ritrovavamo su quest'isolotto di fronte a Zara, dopo che noi avevamo mangiato lautamente, ci eravamo proprio buffati, gozzovigliato. E gli austriaci invece no, quindi quando ci trovavamo lì e vedemmo che tutti quanti si toglievano i vestiti e a nuoto raggiungevano un isolotto ancora più piccolo di fronte a noi, e mi venne cioè l'orgoglio di dire: ma possibile, noi italiani ora dobbiamo aspettare il vecchietto che con la barca ci porta di là. Ci guardammo sconcertati. Mi scocciava maledettamente dare un'immagine da debosciati. Chiesi a Dario, uno dei pochi tra noi a sapere nuotare abbastanza bene, se avesse intenzione di seguire gli austriaci a nuoto. La smorfia che colsi sul suo volto anticipò la risposta negativa. L'abbondante pasto lo sconsigliava. Gli chiesi allora in prestito le pinne. Nel porgermele mi mise saggiamente in guardia. Scelsi lo stile da adottare e la rotta a dorso, nel tratto più breve, massimizzando il movimento delle gambe. Scivolai in acqua dandomi una bella spinta dalla roccia che faceva da muletto per la barchetta. Andavo come un treno. All'improvviso percepii una fitta alla pancia, e poi un'altra, e un'altra ancora. Pensai subito all'acqua fredda e alla digestione. Decisi di non farmi prendere dal panico, di continuare a muovere le gambe in modo dolce e ritmato. Qualche movimento ancora e mi resi conto che non avrei potuto continuare, il panico stava per prendere il sopravvento. Ebbi la lucidità di pensare e provare a mettermi in verticale per vedere se toccavo il fondo. Niente. Sentivo le pinne sfiorare appena la cima delle alghe. Rammaricato, presi atto del fallimento, mi girai e ripresi a nuotare con le stesse modalità verso il punto da cui ero partito. Rassicurato mentalmente dalla decisione presa, arrivai senza alcun problema dai miei compagni, che mi aspettavano tranquilli. Non avevano avuto alcuna percezione delle mie difficoltà. Aggrappato allo scoglio da cui ero salpato, sfilai le pinne e le porsi a Dario, che mi chiese sorridendo: «Ma perché sei tornato?» Avrei potuto mentire dicendo che volevo solo fare il bagno, ma gli raccontai la verità. Rimasi di sasso quando, ridendo, replicò: «A Pepa», che è un nostro modo di dire fessacchiotto. «A Pepa, eri a pochi metri dall'arrivo». Avevo utilizzato tutta la lucidità che mi era rimasta per tornare indietro sano e salvo, anziché fermarmi e con calma verificare la situazione. Salimmo sulla barca del vecchietto e approdammo all'isolotto. Control my Questa è una storia a cui sono molto affezionato per mille motivi. Un po' perché conosco bene Zara, perché ci sono stato un paio di volte giusto l'estate scorsa. Un po' perché quest'anno credo che la maggior parte di noi, come è giusto fare, andrà in vacanza, chi riuscirà ad andarci in Italia per aiutarci. Però è innegabile che quella è una zona meravigliosa dell'Adriatico, che sta giusto al di là del mare, ed era una zona, come ci ricorda molto molto bene Lucio, che in tempi nemmeno troppo lontani era una zona italiana di fatto. Pronto, ciao Lucio, buongiorno. Buongiorno. Senti Lucio, quanti anni sono passati da quell'estate? Estate del 69, quindi 50 anni. 50 anni, quindi eri, cosa avevi? 20 anni, giusto? 21 anni, non compiuti. 21, preciso. Senti, che ricordo hai? Erano momenti bellissimi, immagino. Momenti bellissimi, mi rifaccio un po' ai ricordi di Umberto Eco della fine del libro, del film, e non ricorderò mai il nome della rosa. Ricordi bellissimi, perché poi si sfumano col tempo. Senti, quindi tu ancora parli il croato? O comunque croato, è la lingua dalmata, insomma. Il discorso si farebbe lunghissimo, perché la penisola balcanica è un mosaico, lo dice la parola stessa, la Macedonia, di lingue, di religioni. Certo, sì, complessissimo, molto complesso. Che sono riconosciuti ufficialmente. Il croato in particolare poi si divide in Štokavo, Jekavo e Ikavo. Noi siamo Štokavi e Ikavi, cioè, per dirla, fiume, che corrisponde anche al nome della città. La lingua ufficiale attuale è Rijeka, però se io dico Rika, come diciamo noi, non sbaglio, ecco. Al tuo paese, Monte Mitro, giusto? Si chiama, sì, il tuo paese. In quanti siete che avete ancora, diciamo, che mantenete alla memoria, allora, la lingua di quelle zone, e che fate qualcosa per, come dire, tenerla viva questa tradizione? Sì, attualmente siamo circa 400. Okay. Diciamo, c'è stata una forte emigrazione in Italia, prima che ancora in America. Si figuri, mio padre nacque a Montreal nel 1815, quindi. Wow. E quindi siamo arrivati in 400, che purtroppo la parliamo gente giovane e anche meno giovane, tutti la parlano. I giovani incominciano a non parlarla più frequentemente tra di loro, perché le influenze ci sono: televisione, scuola, università, frequentazioni con... Poi, come diceva Fras Mescoli di Termoli nel 1750, la necessità degli matrimoni con le donne estere, nel suo italiano medievale, comporta, per esempio, mia moglie di un paese della provincia di Chieti, qui di fronte a noi, e quindi io con lei devo parlare italiano, anche se ormai lei mi capisce. Però perché tu altrimenti dici, ma tu ti senti, cioè, sei madrelingua croato? Madrelingua, sì, mia madre mi parlava croato e mia nonna principalmente, okay. Mio padre. Ma quindi scusami Lucio, quando appunto, cosa fate? Organizzate delle grandi cene di cevapcici con gli amici e parlate in croato? No, no, purtroppo molte delle tradizioni balcaniche vere e proprie si sono perse dopo 500 anni, è rimasta la lingua. Qualche tradizione, come il gioco con le pietre che noi chiamiamo pljučke, che si fa anche in Istria, e c'è un campionato ogni anno dove vanno anche gente di questi nostri tre paesi, insieme a Montemito, Acquaviva e San Felice. Poi altre tradizioni, la tessitura, alcune particolarità agricole si mantengono, quindi combinare. Insomma, in qualche modo sono vive, sì, ad esempio Lucio, tu hai dei figli, giusto? 4. E loro parlano? Cioè, gli parli in croato, loro lo parlano, lo capiscono? Loro lo parlano, però non naturalmente. Mentre a me viene naturale, io parlo loro in croato, e loro, solo se ci troviamo in un contesto in cui non vogliono far capire all'interlocutore, ai presenti, cosa stiamo dicendo, certo, parlano, mi sì, rispondono. Sì, sì, sì. Come mio papà quando andavamo al mare all'isola d'Elba e non voleva farsi capire dalle persone, parlava in dialetto romentinese con mia madre, però è un po' diverso, insomma, quello è un dialetto, la tua è una lingua. Senti Lucio, purtroppo... Ma nell'episodio che ho citato, nella lettera, non so se avete avuto occasione di leggere, c'è un episodio particolarissimo che mi ha toccato, cioè il preside che ci teneva, presiedeva il corso, sì, sì. Per 3 settimane ci ha parlato sempre in croato. Sì. L'ultimo giorno, al momento del saluto, e lui, quindi potevamo dire di lui peste e corna, o qualche volta abbiamo fatto, una persona bellissima. Ti ha parlato in italiano. Ci salutò in un perfetto italiano, perché Zara intorno al 1000, negli anni 30 era una provincia italiana. Certo, certo, ma a me capita appunto di andare negli ultimi anni di frequente in Croazia, e la parte estriana quasi tutti ti capiscono, insomma, quantomeno l'italiano lo capiscono. Senti, purtroppo ti devo salutare, l'ultima cosa, Lucio, immagino quest'estate magari sarà difficile, ma la frequenti ancora la Croazia? Ci vai quando riesci? Ogni tanto sì, l'ultima volta ci sono stato 3 anni fa, che avevo mio figlio che abitava a Trieste, abbiamo fatto una scappata. Ah certo, proprio lì, a un tiro di schioppo, certo. Senti Lucio, ti ringrazio davvero tanto, è stata una bellissima storia la tua, e insomma ti auguro ogni bene, in bocca al lupo per tutto. Grazie e complimenti. A presto, grazie a te. Senza smettere di imparare si intitola la puntata di oggi. Ora sentiamo le borse in diretta, poi torniamo a raccontare una storia che ha sempre a che fare con il nuoto, ma in realtà con insegnamenti che dal nuoto passano anche al resto della vita di una persona. Tra pochissimo, qui a Linea 2. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. Se è la prima volta che ascoltate Linee d'Ombra, magari all'alba, magari la replica della mattina, per cui è prestissimo, e chi lo sa, siete in macchina per una ragione che non vi è mai capitata prima. Sono le 5:15, sono le 5:20 o le 5:30, dipende più o meno da che punto siamo della puntata, e avete capito che raccontiamo delle storie. Ecco, quello che c'è da sapere solo in più rispetto a questo dato è che noi raccontiamo delle storie che hanno a che fare con un confine, con una linea da varcare, per cui c'è un prima e un dopo. Oggi la puntata si intitola Senza smettere di imparare. Abbiamo raccontato prima la storia di un ascoltatore, come sempre partiamo da lì, dalla storia di una persona che ha voglia di condividere un pezzo della sua vita. Abbiamo sentito la storia di Lucio, che raccontava di insegnamenti, di corsi di lingua jugoslava, di lingua croata, nella fattispecie in Croazia, per una piccola comunità di ex dalmati che si erano scappati dalla Dalmazia e si erano rifugiati in varie parti d'Europa, tra cui il Molise, e lui era parte di quella comunità. E ora continuiamo a raccontare storie. Questa è una storia che arriva dagli Stati Uniti, l'abbiamo letta nel New York Times Magazine, ed è la storia di una ragazza che decide di imparare a nuotare tardi nella vita, molto tardi, all'età di 28 anni, e a quel punto capisce delle cose sul nuoto, ma anche su di sé. Si intitola Senza smettere di imparare. Ebbene, eccoci qua. La maggior parte delle persone che conosco che nuotavano hanno imparato prima di poter considerare di avere paura. A 28 anni io non avevo avuto questo lusso. Quando ho chiesto a mia madre perché non avessi mai preso lezioni di nuoto da piccola, lei mi ha ricordato che avevo già fatto diversi corsi importanti come il tip-tap oppure danza a livello agonistico. 3 delle mie 4 sorelle più giovani a un certo punto hanno frequentato un corso di nuoto estivo, ma nessuna di loro ha mai imparato veramente a nuotare. Temevo che stessimo rinforzando un brutto stereotipo, e cioè che i neri, a causa di un'idea razzista, non sanno nuotare. Disperata quindi chiesi a mia madre se qualcuno della nostra famiglia sapeva come fare. Ragazza, mi disse lei indignata, io so nuotare, ad esempio. Secondo lei, tutti quelli cresciuti negli anni 70 sapevano nuotare. Non avevamo tutte queste distrazioni, mi ha detto. Se c'era dell'acqua, semplicemente ci entravi, punto. 1 anno e mezzo fa, più o meno in primavera, mi trovavo alle Hawaii, ma non ero lì per nuotare. Ero esausta, il mio cervello aveva la consistenza di una gomma masticata. Un amico mi aveva detto che l'acqua delle Hawaii sarebbe stata curativa. Quindi ogni mattina a Honolulu mi svegliavo alle 4 del mattino, compravo un caffè e mi sedevo sulla spiaggia, guardando l'alba e i surfisti, ascoltando i Pet Sounds dei Beach Boys. Un pomeriggio mi avvicinai al bagnasciuga e lasciai che l'acqua mi lavasse le caviglie e scoppiai in lacrime per il sollievo. Ma non ho mai preso in considerazione l'idea di nuotare in vita mia. Non avevo nemmeno messo in valigia un costume da bagno. Fino a che un giorno ho scoperto un corso di nuoto che si chiama Il Nuotatore Riluttante. Il Nuotatore Riluttante è un corso pensato per persone che hanno paura dell'acqua. È limitato a solo 4 allievi e si riunisce due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, dalle 20 alle 20.45, qui a New York. Sono arrivata il primo giorno vestita con una cuffia da bagno extra large e l'unico costume che avevo, un monopezzo arancione brillante che non mi stava bene. E ho scoperto che ero l'unica allieva del corso. Ero ufficialmente il nuotatore più riluttante di New York. Paul, il mio istruttore, mi ha salutato con un colpetto sulle spalle e poi ha trascorso la nostra prima ora insegnandomi a chiudere la bocca e a spingere fuori l'aria dalle narici. Riuscivo a farlo benissimo con la testa fuori dall'acqua, ma appena andavo sotto l'acqua mi sentivo come se stessi soffocando. Gorgogliavo violentemente e inspiravo involontariamente, causando scie di moccio attorno al mio viso già bagnato. Paul, un uomo affabile ma fermo, mi suggerì di esercitarmi nella vasca da bagno quella sera stessa a casa. Poi mi convinse che potevo galleggiare sulla schiena e alla fine lo feci. Paul mi disse che il mio cervello non era stato abituato a rimanere nell'acqua, ecco perché ero riluttante. Era come se il mio stesso cervello mi proteggesse. Il nuotatore riluttante è durato 8 settimane e dopo ogni lezione io tornavo a casa e prendevo appunti. Quella prima sera, sgocciolando d'acqua sulla metropolitana mentre tornavo a casa, scrissi che sentivo una vera e tangibile paura. Non ansia, non nervosismo, non stress, ma una sensazione di vero panico. Quando ho finito il corso, Paul mi ha detto che ero diventata abbastanza brava da iscrivermi a un corso di nuoto per principianti. E così feci. I mesi che ho utilizzato per imparare a nuotare mi sono serviti anche per imparare ad uscire con le donne, cosa in cui ero molto più brava rispetto agli uomini. All'età di 20 anni avevo trascorso un paio d'anni in una relazione con un bell'uomo dalle spalle larghe che mi preparava enormi panini e mi baciava sulla fronte al mattino. Quando ci siamo lasciati, ho passato l'anno successivo ad uscire con i ragazzi, passandoci attraverso come fosse acqua corrente. Ma poi, una volta, ho baciato una donna, nelle ore nebulose che seguono il Capodanno, e ho scoperto che mi piaceva più di ogni altra cosa al mondo. Dopo qualche settimana di lezione, il mio diario di nuoto è diventato un diario regolare e inframmezzavo le registrazioni delle lezioni di nuoto con note sulla mia vita quotidiana. Nella settimana della mia quarta lezione di nuoto avevo 2 appuntamenti. La mia nota nel diario terminava con «Non posso credere che sto riuscendo a farlo». Dall'aereo, la vista dell'acqua caraibica dell'isola di Turks and Caicos mi faceva sudare di entusiasmo, come se mi stessi preparando per un appuntamento. Era la fine di febbraio e in questa vacanza avrei finalmente nuotato nell'oceano. Ma una volta arrivata, continuavo a trovare il modo per evitare di entrarci. Un pomeriggio mi sedetti in un ristorante vicino alla spiaggia, ammazzando il tempo, quando 2 persone si sono dirette tranquillamente verso di me in kayak. Ecco lì ho deciso che il kayak poteva essere divertente. Se potevo entrare in un kayak, nell'acqua, pensavo che a un certo punto avrei per forza nuotato. Indossai un giubbotto di salvataggio e cominciai a remare in circolo, contenta anche solo di averci provato. E poi, passo dopo passo, mi dicevo se riesco ad arrivare a quel molo laggiù, posso uscire, pensavo. E poi, se riesco ad arrivare dal molo alla scogliera, posso finalmente lasciare la spiaggia. E voilà, l'avevo fatto. A un certo punto stavo tornando a riva quando un padre e una figlia hanno fatto il giro della scogliera. «Laggiù c'è un relitto!» mi ha urlato la bambina. Dissi loro che avrei cercato di farcela, ma era la prima volta che andavo in kayak. Il padre mi disse che non avevo nulla di cui preoccuparmi. «Sai nuotare, vero?» «Non proprio!» ho urlato in risposta, già remando via. Più mi allontanavo dalla riva, più mi avvicinavo al relitto, più le onde crescevano. Non c'era nulla che mi proteggesse dal vento, remare diventava più difficile. Ho fatto un giro su me stessa e ho visto il relitto da lontano, poi ho smesso di remare. Un'onda mi ha fatto schiantare contro la barriera corallina sotto di me. Il vento era aumentato improvvisamente. Continuavo a cercare di fare perno, ma non riuscivo ad uscire. Il mio kayak si era incastrato tra le scogliere come se fosse parcheggiato. Alla fine, il padre di prima, col kayak, tornò con un altro figlio a bordo e mi aiutò a rientrare. Ora che l'avevo fatto, pulsavo di adrenalina, mi girava la testa con questa nuova consapevolezza di poter fare praticamente qualsiasi cosa. Sono arrivata a riva, ho lasciato il kayak e sono tornata in acqua. Prima che potessi convincermi a tornare indietro, stavo già bevendo dell'acqua salata, tirando dei pugni con le braccia e prendendo a calci l'acqua alla maniera delle rane. Era una giornata nuvolosa, l'acqua metteva tutto fuori fuoco. Dopo due bracciate mi sono ricordata che dovevo respirare. Dopo due respiri mi è venuta l'ansia, ero in preda al panico. Sto cercando di rilassarmi, è una vacanza, ho pensato iperventilando. Mi sono tolta gli occhiali appannati e ho provato a galleggiare sulla schiena, trattenendo il respiro per paura di far uscire l'aria dai polmoni. Mi resi conto, con mio grande orrore, di avere nuotato lontano dalla riva invece che verso di essa. Quindi presi un respiro. Potevo farmi prendere dal panico, pensavo tra me e me, oppure potevo salvarmi. Queste due esperienze, uscire con delle donne e imparare a nuotare, hanno continuato a intrecciarsi come in una seconda adolescenza e poi una terza. A volte temevo di andare a lezione con la stessa angoscia di dover chiedere a una ragazza un appuntamento. Mi sentivo goffa e insicura, e irritata, e euforica, e forte, brillante e meravigliosa, tutta in una volta. L'ultimo giorno di lezione di nuoto, Paul mi aveva sgridata per essermi aggrappata al bordo ogni volta che mi ero spaventata e stancata. «Non ci sarà nessun bordo a cui aggrapparsi sulla spiaggia», mi disse. Per questo all'inizio abbiamo passato tanto tempo a lavorare per imparare a partire dalla posizione di fronte per poi girarmi sulla schiena. Lui voleva essere sicuro che se mai fossi stata in pericolo avrei saputo girarmi di schiena per galleggiare e riacquistare i sensi. In fondo il senso del corso del nuotatore riluttante stava tutto in quel movimento. Non avevo bisogno di sapere come eccellere nel nuoto. Avevo bisogno di sapere che potevo salvarmi. Questa storia è stata raccontata e scritta da Jasmine Hughes su New York Times Magazine e si intitolava «Imparare a nuotare mi ha insegnato più di quanto pensassi, più di quanto avessi pagato per farlo, grosso modo». Questo era il titolo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui con i vostri diari delle ripartenze e con la nostra storia seriale della serie. Oh. Mentre tutto intorno affonda, qui si studia o si balla. Cia, cia, cia. È la maturità più strana di sempre e noi ci saremo per viverla fino in fondo. Sono Federico Taddia e vi aspetto insieme ad Eugenio degli Eugenio in Via di Gioia alla notte prima degli esami. 3 ore in diretta con i racconti dei maturandi, le voci degli esperti, i ricordi degli ospiti e degli ascoltatori. Una notte da non perdere, dopo un anno scolastico, suo malgrado, indimenticabile. Ciao, ciao, ciao. La notte prima degli esami, martedì 16 giugno dalle 21 a mezzanotte, ciao, ciao, ciao. Su Radio 24, ciao, ciao, ciao. In collaborazione con scuola.net. Linee d'ombra. Da un po' di settimane abbiamo cominciato a chiedervi delle storie non più dei diari della quarantena, ma dei diari della ripartenza, dopo il 18 di maggio e ancora di più dopo il 3 di giugno, quando finalmente abbiamo cominciato a poterci muovere tra le regioni. Vi abbiamo chiesto appunto di mandarci delle storie che raccontino una ripartenza e vi ringraziamo per farlo. linee@radio24.it e lo facciamo così, cioè le chiediamo tramite la radio. E giusto una settimana fa mi trovavo da un fioraio di Milano, che diciamo è il mio fioraio di fiducia, che lui si chiama Francesco, il fiorista si chiama Clori, è in un posto magnifico di Milano, dei fiori magnifici, insomma ci passo più spesso che posso, e parlando della radio mi ha detto: c'è lei c'ha una storia incredibile che le è successa adesso durante la quarantena. E io quindi le ho detto: guarda, mandamela. Lei me l'ha mandata, me l'aveva accennata mentre ero lì e avevo detto: wow, che storia. Poi l'ho letta e adesso ve la racconterò. Ho detto: ammazza, questa è una storia totalmente incredibile. Parla di incidenti, parla di lockdown e ovviamente parla di ripartenza. Mi trovavo in un viaggio che non era proprio desiderato. Volevo andare in Botswana, ma per una serie di maledizioni mi sono rediretta nel Kruger in Sudafrica, in una full immersion di safari di cui 4 a cavallo. Sono un amante dell'equitazione, stavo studiando da 2 anni dressage inglese e salto. Avevo paura di cadere, ma mi era già capitato 3 volte in diverse modalità e circostanze. Quel pomeriggio del 6 di gennaio mi trovavo senza sella in groppa a Twin, un esemplare mastodontico e altrettanto codardo. Avevo avuto quella sensazione sin da subito, ma avevo deciso di rimanere calma e in sella, volevo finire il mio percorso. Dopo un salto, dove ero già caduta in acqua, ero risalita in sella pronta per tornare al maneggio, ma lì qualcosa ha turbato i cavalli e Twin, il più nevrotico dei 4, si è imbizzarrito e io non sono riuscita a tenermi su di lui. Colpo secco alla vertebra D12 e uno al dito medio della mano sinistra. Inizia la mia vita da paziente. Corsa al maneggio per chiamare la guardia medica, corsa alla clinica privata di Zanin a 100 km di distanza per capire i dettagli della mia caduta. Confermano la rottura della D12 e il distaccamento di una spicola ossea del dito medio della mano sinistra. Mi rimandano a Milano in un bellissimo letto orizzontale per essere vista da un ortopedico in primis e poi da vari neurochirurghi. Era necessaria un'operazione di stabilizzazione della colonna vertebrale. Il 13 di febbraio mi operano in una nota clinica pubblica di Milano e nel mentre la notizia del nuovo coronavirus si sta diffondendo anche in Italia. Mi rendo conto da subito che qualcosa va storto. A destra sento che tutto è a posto, a sinistra 3 chiodi mi premono sui nervi. Ho 6 chiodi in totale, 3 messi bene e 3 no. È necessaria un'altra operazione. È un martedì, il 3 marzo, mi viene proposto di operarmi o 2 giorni dopo, il 5 di marzo, oppure il 10. Su consiglio del neurochirurgo, ma senza dubbio con la mia perplessità, si opta per il 10 di marzo. Ora sappiamo bene del decreto del 9 di marzo. Quel giorno mi sentii distrutta. Non sapevo più quando mi avrebbero operata e non mi davano alcuna assistenza per trovare un'alternativa. Io non volevo rimanere in quel modo, non era giusto. Una neurologa di Ascoli Piceno, anche mia cara amica, mi trova una possibilità. Il neurochirurgo dell'ospedale Torrette di Ancona è disposto ad operarmi. Devo solamente raggiungere Ancona da Milano in pieno serrato lockdown. È il 16 di marzo. Ora ho una soluzione e voglio andare, o meglio, sono un'urgenza, ma nessuno può accompagnarmi e nessuno può venire ad Ancona con me. Il 19 marzo inizia il mio viaggio solitario in treno, con documenti e pochissimi effetti personali. Non potevo portare pesi con me e non sapevo se sarei mai arrivata ad un orario decente. Pochissimi treni e quasi nessuno in giro. Arrivo finalmente in ospedale. Sento di 150 persone intubate. Rimangono in ospedale per 11 lunghi giorni perché si fa tutto con la dovuta attenzione e cautela. Mi ricordo quello che vedevo dalla mia finestra ogni giorno. La camera ardente, le tende d'ingresso del pronto soccorso per i sospetti Covid, l'elicottero e diverse ambulanze che non smettevano mai di andare avanti e indietro. Il 26 di marzo finalmente mi operano per la seconda volta. Mi libero da un chiodo inutile e me ne sistemano 2. Il risultato lo sento da subito. Non ho dolori da urla e nessuna nevrosi. Ritorno a Milano con una vita nuova, ma sempre da rottamare. La vertebra sta guarendo, il dito medio è sempre pronto all'inverosimile. Io mi preparo a lavorare con il nuovo momento storico. Anzi, sono già all'opera, a tutta volontà. The man is still alive.